Le Marche Online. Viaggio alla scoperta delle Marche, navigando su internet. Un programma a cura di Luca Lorenzetti. Bene, oggi parliamo di lavoro, un argomento importante che non perde mai d'attualità e focalizza l'attenzione soprattutto dei giovani in cerca di lavoro. Abbiamo oggi in collegamento telefonico Luca Guazzati, consulente della comunicazione e direttore del periodico economico Il Mondo del Lavoro nelle Marche. Dottor Guazzati, buongiorno. Buongiorno. Dunque, in quanto consulente della comunicazione, lei crede che la nostra regione sia pronta per introdurre internet nel mondo del lavoro oppure non siamo ancora in grado di far fronte a questa transizione? Beh, dei miglioramenti sono stati fatti molto recentemente. Fino a qualche tempo fa eravamo indietro sia come conoscenza dei mezzi fondamentali della comunicazione sia per quanto riguarda dunque anche un utilizzo elementare quotidiano di questi mezzi. Mi riferisco ad esempio a progettare, realizzare, utilizzare dei progetti veri e propri di comunicazione. Prova, ad esempio, un'altra prova è la scarsità proprio delle agenzie di comunicazione su tutto il territorio. Una presenza globale ammonta non più di 5 o 6 agenzie, di cui solo 2 o 3 sono in contatto e come partner e come agganci e come esperienze a livelli di tipo nazionale. E secondo anche una ricerca universitaria, ecco, se prima parlavo di carenze di cultura d'impresa, anche a livello di studi di giovanili, di quindi preparazione dei giovani, l'approfondimento degli studi nelle Marche è molto orientato, come è noto, verso indirizzi scientifici. Abbiamo per esempio tecnica e pratica anche ad Ancona, che è un argomento recentissimo, l'Università di Ancona ha fatto una convenzione proprio con la telecomunicazione per fornire ad ogni iscritto, sono quasi 10.000, un accesso ad internet, per cui ecco, qualcosa si muove anche molto velocemente, però per esempio vedo molti atenei come Urbino e Macerata che hanno scoperto internet molto più recentemente, ancora come utilizzo sono abbastanza, diciamo, istituzionalizzati. Sì, quindi dunque stiamo parlando di università, stiamo parlando quindi di formazione. Secondo lei quanto è importante la conoscenza delle nuove tecnologie, non solo di internet, ma dell'utilizzo, insomma, della padronanza dello strumento informatico, della comunicazione tra le competenze di un giovane in cerca di lavoro? Ma direi che è fondamentale, sicuramente per esempio la lingua e l'utilizzo del computer con l'approfondimento del mezzo internet è sicuramente ormai entrato di forza su tutti i curricula dei giovani, soprattutto per cercare lavoro, perché approfondire la propria cultura significa estendere le proprie conoscenze e quindi fare esperienza, e attraverso l'uso di uno strumento come internet si può accedere a una serie di dati che ormai sono necessari, si parla di globalizzazione a tutti i livelli, no? Sul mercato del lavoro questo è direi quasi una condizione senza la quale non si può assolutamente andare a conoscere le opportunità che ci sono. Inoltre proprio su internet c'è questa banca dati globale, possiamo dire, dove per esempio si faceva recentemente proprio l'Informa Giovani anche sul mondo del lavoro uno scambio di link e di informazione dove c'è l'accesso a tutte le informazioni, per esempio delle agenzie per l'impiego, delle Marche, c'è l'accesso alle chiamate della Capitaneria di Porto, ormai che anche i militari per esempio si sono tecnologicamente attrezzati per diffondere questo tipo di informazioni inerenti appunto ai posti di lavoro. Ecco, per cui direi che qualsiasi livello di ricerca di posti di lavoro ormai non può prescindere da una conoscenza del mezzo internet per cercare di ampliare le proprie opportunità. Benissimo, quindi internet possiamo dire che è ormai protagonista nel percorso formativo di chi sia alla ricerca di un lavoro o di un nuovo lavoro, di un lavoro più qualificato. Senz'altro, poi direi che il mezzo ormai è a portata di tutti, per cui è diventato popolare, mentre prima il costo di un computer e comunque l'accesso era per pochi eletti, diciamo, che conoscevano i negozi specializzati e quindi frequentavano questo tipo di chiavi d'accesso, chiamiamole così. Adesso invece, grazie anche a molta pubblicità, dobbiamo dire, questo è stato una diffusione importante via telefono, no? Perché ultimamente c'è questo bombardamento, gli accessi internet sono, diciamo, regalati quasi. Sì. Ecco, ormai penso che questo mezzo è alla portata di tutti. Bene. C'è un'ultima cosa da chiarire che secondo me sì. vale la pena soffermarsi. Qualche ragazzo, forse quelli un po' più giovani, hanno dei freni inibitori nella famiglia, perché internet è anche un mezzo che, se usato male, per esempio certo. per pornografia o queste cose qua, fa paura, no? Certo. Si parla spesso sui giornali di queste inchieste. Ecco, però io direi che, come quando Nobel ha scoperto la dinamite, è chiaramente un mezzo che guarda al domani, per cui direi che l'educazione parte proprio di lì. Bisogna saperlo usare, bisogna saper trarre vantaggio dal futuro, dall'innovazione tecnologica. Giusto, è una giusta precisazione. Ringraziamo Luca Guazzati per la sua disponibilità. A risentirci. A risentirci, buongiorno. Avete ascoltato Le Marche Online. Viaggio alla scoperta delle Marche, navigando su internet. Musiche di Giacomo Caliolo, Raffaele Mazzei e Piero Trofa. Consulenza musicale Raffaele Mazzei. Un programma a cura di Luca Lorenzetti.